dobbiamo parlare di sapori di mare e quindi io non potevo tirar fuori questo Little Tony, dannata. Che bello era questo pezzo. Il tutto per augurare una buona giornata e dare il bentornato a Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao, eccoci qua. Io mi aspettavo sapore di sale, sai perché? L'argomento di cui parleremo. Perché non è solo mare, ma c'è anche il sale. C'è anche molto sale. Bene, allora, dimmi qual è la tendenza che hai notato in questa settimana. No, tu hai parlato di ritorno al passato. Ebbene, bisogna proprio dire che a tavola a volte ritornano. Ritornano, ma non si sa, cioè come e in quale veste, perché molte volte ritornano dei cibi considerati molto poveri, addirittura diciamo della disperazione anche, e poi diventano ricchi perché cominciano a costare molto cari, diventano di moda, diventano tendenza. E la tendenza che c'è oggi, ma non solo nella ristorazione, un po' ovunque, è l'acciuga. L'acciuga o diciamo anche alici, perché sono della stessa famiglia. Diciamo che le differenze sono veramente molto poche, dipende in quali mari vengono pescate, in quali mari poi vengono lavorate. Bene, all'improvviso, come mesi fa, magari due o tre anni fa, è riscoppiato il boom del baccalà, che è anche quello piatto povero. All'improvviso ora ovunque si mangiano acciughe. Se tu vai in qualsiasi ristorante di qualsiasi livello, cosa ti propongono per iniziare? Burro e acciughe o burro e alici. Ci sono anche dei ristoranti che si chiamano burro e alici, tra l'altro, quindi proprio per dare il segno di una tendenza che ormai è completamente rimarcata. E come capita nelle belle favole, però ci sono anche dei momenti o delle cose che diventano leader, diventano appunto quelle che trainano. Bene, in questo caso c'è un'acciuga molto particolare che ci arriva da non molto lontano, siamo sempre in Europa, dalla Spagna, dal Mar Cantabrico, dove ci sono delle acciughe molto più grosse di quelle che si trovano nei nostri mari. Ricordiamo che le capitali delle alici o delle acciughe, che dir si voglia, in Italia sono Cetara, Monte Rosso e Sciacca in Sicilia. Cetara, che è famosa per la colatura, no? Esattamente, poi arrivavo anche quello. Cetara, io non è che sono preparata di mio, sono preparata perché studio con te. Bene, tu hai detto una cosa importante, perché proprio quello che distingue Cetara e quello che distingue anche l'Italia rispetto alla Spagna, ad esempio, che c'è questo prodotto magnifico che è la colatura di alici, che insapora tutto, si possono condire pasti appena tirate su con un goccio di olio e un goccio di colatura e già sono pronte, si possono condire le patate, si possono condire, può essere un aiuto al sapore anche nel pesce. Quindi diciamo che è veramente qualcosa di magico da paragonare all'aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia, ma direi di più, c'ha una similianza con un qualcosa di storico che è il garum. Il garum, diciamo, è questo impasto di teste di pesce o di altro che aveva un sapore fortissimo, che veniva usato in tempi veramente antichi. Infatti è antica Roma addirittura. Antica Roma, siamo proprio allora. Ma per tornare al Cantabrico, perché le acciughe del Cantabrico costano vero care? Guarda che ci sono delle acciughe che si chiamano numero uno del Cantabrico, perché anche lì ci sono ormai delle classificazioni. Come in Francia ci sono delle classificazioni per le sardine vintage, cioè secondo le annate. Ebbene, nel Cantabrico ci sono, a seconda della selezione che viene fatta, e ci sono delle acciughe che costano un euro, quindi un euro d'acciuga o poco meno, quindi diciamo costose. La qualità dipende da molte cose ovviamente, ma soprattutto dipende anche da una politica marina molto intelligente che è stata fatta in quei luoghi, perché ogni due anni c'è il fermo biologico e questo permette alle acciughe di crescere e di diventare carnose, perché se uno mangia una grande acciuga del Cantabrico veramente sente proprio la carne, veramente sono gustosissime, e poi una volta dissalate anche il sapore è veramente, veramente straordinario. Io ho un vezzo di dissalarle le acciughe e poi di metterle a bagno con olio, peperoncino e aglio, e così diventano ancora molto più forti, forse perdono un po' quel sapore di mare probabilmente, però a me piacciono tantissimo. Dicevo, in Italia ci sono questi tre posti che ho elencato prima, appunto Setara, Sciacca e Monterosso, dove c'è il passaggio, c'è proprio il passaggio delle acciughe. Ebbene, anche queste sono di grandissimo valore e noi in Italia cerchiamo di mangiare queste, però ormai siamo inondati veramente dalle acciughe del Cantabrico a prezzi veramente molto ma molto alti, e probabilmente, cioè, la gente ormai le sceglie, è diventato un vezzo di aprire il pasto con queste acciughe e anche di mangiare dei piatti a base di acciughe. C'è in alcuni ristoranti che fanno il tortino di acciughe, che è veramente una cosa squisita per chi ama questo sapore molto forte. Poi si possono condire la pasta con le acciughe, diciamo forse meglio con le sarde. Certo, c'è anche un più tradizionale, ecco. Sì, il piatto tradizionale della Sicilia, appunto, delle sarde, ma poi ci sono le sardine anche, che sono di questa famiglia, quindi sono un po' diverse, sono, diciamo, molto più particolari, molto più magre. Comunque è, diciamo, ormai è tornata questa ventata che sta prendendo, e si stanno anche creando dei piatti, come dicevo, molto basati su questo prodotto. Per tornare alla colatura, vorrei ricordare che non è una cosa molto semplice per ottenere la colatura, anzi do un avviso ai naviganti: attenzione, perché in giro c'è molta colatura che è taroccata, dentro c'è molto caramello, guardate bene da dove viene, informatevi, perché ormai anche questo, diciamo, boom della colatura sta portando in questo paese, come succede spesso, a delle copie, io le chiamo le fotocopie, che non sono proprio reali. Ci vogliono mesi per ottenere la colatura, con un procedimento molto lungo, storico, perché la colatura di Alice ha una lunga storia. Addirittura veniva, diciamo, la boccettina che veniva ottenuta con grande sforzo, veniva messa un tempo, ma ora non più, nelle finestre di Cetara, degli abitanti di Cetara, e veniva scambiata a Natale come dono di grande amicizia. Quindi, diciamo, c'è anche una storia della cultura del territorio su questo prodotto, quindi va rispettato. E come? Leggiamo bene le etichette per le etichette, informiamoci molto bene, vediamo anche il costo, perché così come succede con l'aceto balsamico, che ce n'è di tutti i tipi, anche qui ormai, diciamo, che questo grande interesse, questo grande successo ha portato appunto a far sì che in giro ci siano delle boccettine. Ecco, magari qualche volta coinvolgiamo Enrico Pagliarini, che è di là in redazione, la prossima lo coinvolgiamo e lo facciamo parlare di aceto balsamico. Lui è anche lui un grande esperto, essendo di Modena. Lui parlerà di quello tradizionale, esatto, di Reggio Emilia, perché lui è più vicino a Reggio Emilia. Comunque lo chiamiamo, per carità, lo facciamo parlare di Castelnuovo Rangone, poi glielo diciamo. Adesso è in redazione, di là arriverà tra pochissimo. Perché a Castelnuovo Rangone c'è un monumento al salume, quindi diciamo che Castelnuovo Rangone è molto importante dal punto di vista gastronomico. Ora che non c'è, lo dico, perché sennò si monta la testa. Certo. Lo dico in suo presente. Sì, sì, ma magari di là chi ascolta, però poi glielo diciamo. Allora, c'è un ascoltatore, Pietro, che dice: da noi sarde in saor e bigoli in salsa, slurp. Sono d'accordo, slurp. Sì, diciamo che andiamo in Veneto, quindi non è l'acciuga, però sicuramente la sarda, come le paste con le sarde, in Veneto c'è questa tecnica di conservazione che sicuramente in tempi molto magri e molto bui era importante, perché c'era una conservazione importante. Diciamo che è una tradizione che si porta avanti in tutto il Veneto e è molto diffusa e molto anche seguita, sicuramente, per carità, ma ci sono tantissime usanze basate su questi pesci un tempo poveri, questi pesci azzurri, che io lo voglio rimarcare, contengono più omega 3 di tutti i pesci bianchi, di cui il costo è alle stelle, di cui tutte le signore vanno in pescheria e chiedono solo quello. Chiedete pesce azzurro, perché il pesce azzurro costa meno, è più buono ed è più nutriente. Allora, Davide, sono le 15:26-24 minuti, direi che abbiamo qualche minuto per parlare della tua chicca della settimana. Cosa hai scovato? Ma ho scovato, come si dice, c'è qualcosa di nuovo, anzi di antico, a Parma. A Parma c'è una trattoria che io, quando scrivo il nome di questa trattoria, la trattoria metto la T maiuscola, perché ritengo che sia un prototipo di trattoria all'italiana straordinaria, cioè ce ne sono diverse, però questa secondo me è una di quelle che io metterei nella mia top 10. Si chiama Cocchi. Cocchi a Modena è un'istituzione, perché è un posto che conoscono un po' tutti, e la domenica a mezzogiorno sono già i tavoli predestinati da anni di alcune famiglie parmigiane, e quindi sicuramente è un luogo che ha molta fidelizzazione, però è anche conosciuto fuori di Parma. Ebbene, cosa si mangia? Beh, Parma è nota per la sua cucina, è nota per i suoi prodotti. E allora, se uno va a Parma, non può non mangiare gli anolini in brodo. Gli anolini sono della famiglia, diciamo, dei tortellini e dei cappelletti, però sono rotondi, hanno delle dimensioni molto particolari. Addirittura anni fa è stato depositato alla Camera di Commercio, sono state depositate le misure ideali dell'anolino. Dentro hanno un ripieno che si differenzia molto da quello del cappelletto e da quello del tortellino, quindi è veramente un discorso molto molto molto parmigiano. Si possono mangiare anche asciutti, però diciamo che il brodo è la sua morte, come si dice tante volte. Certo. Poi ci sono i tortelli. I tortelli, il Parma è famoso per i tortelli ricotta e erbette, però a me piace di Parma, perché lo si trova, il tortello di patate, con dentro il ripieno di patate e magari sopra condito con il tartufo. Il tartufo, c'è una zona di Parma dove si trova dell'ottimo tartufo nero, quindi viene servito in questa maniera. Poi ci sono anche i tortelli con la zucca, perché la vicinanza di Mantova, certo, porta anche questo. Poi i secondi, ho dimenticato, torno indietro, a Parma c'è il culatello, e quindi da Cocchi si mangia sempre un culatello stagionato perfettamente, e quindi i culatelli migliori se le va a scegliere, non li produce, ma se le va a scegliere. Poi il salame di felino, perché siamo sempre a Parma, quindi è tutto fatto in casa, si trova della coppa. La coppa di Parma, che non è quella di Piacenza, perché mi si sentono i piacentini, non so, mi ammazzano. Poi vado avanti, cioè, come secondo io consiglio sempre in questo posto la punta di petto ripiena. Ecco, questo è veramente un classico parmigiano. Da Cocchi si raggiunge veramente il livello massimo, il leader massimo di questo prodotto. Poi c'è il bollito, ovviamente in stagioni forse ora sta per finire, però c'è anche il bollito, perché il bollito, facendo un brodo ottimo per far morire gli anolini, ovviamente fa anche questo. Dolce in fondo, bene, chiedete il gelato, perché arriva appena fatto con la pala, addirittura arriva in sala con la pala, quindi appena tirato fuori dalla macchina, e ve lo serve col cucchiaio, quindi è come detto e fatto, insomma, in poche parole. Oppure, se non vuoi mangiare il gelato, può mangiare anche lo zabaglione. Lo zabaglione, io sono goloso, e vabbè, si mangia anche lo zabaglione veramente è un fatto di gola. Vini c'ha un'ottima cantina, non solo di vini, se vogliamo, emiliano-romagnoli, ma anche di vini su tutto il territorio. Quindi credo che sia un posto che valga la pena chi va a Parma, oppure che ci va apposta per andare a Parma. Beh, che meraviglia, non so se scegliere tra lo zabaione e il gelato. Nel frattempo, in questo momento è entrato Enrico Pagliarini in studio. Enrico, ti sono fischiate un po' le orecchie, perché abbiamo parlato tantissimo di te con Davide Paolini. Sì, facendo di sì. Vabbè, dopo ti racconto durante la pausa. Grazie Davide, mi hai fatto venire una voglia. Buona di domenica. Zabaione e di gelato, che vabbè, lasciamo perdere. Puoi mangiarli tutte e due. Grazie Davide, buona domenica a te, al prossimo sabato.